Thank you. colpo di terremoto. Sono due femmine davanti al mar, nulla da fare. È piena luna, e nella sabbia lo sguardo sulla spiaggia. Lei con il suo blue jeans, per il resto nuda. Nuda giusto con i suoi capelli, lunghissimi. Il gesto della mano alla bocca con la sua sigaretta. Guardo il fumo che esce dalla bocca e poi se ne va, con il vento, nelle onde. Cade la notte sotto la luce della luna. Si vede bene, però si vede solo luce e oscurità. Un pannello di sfumature tra le tenebre. L'ambiente è come in pausa. Non si sentiva niente tranne il rumore delle onde. Si cade dappertutto quando lo sguardo vede nero, nero contro nero. Inizio un viaggio sotto le stelle, sopra il mondo. E più la guardo, e più vedo che lei anche se ne va con il fumo della siga. Lei non è più di là. E questo fumo che esce dalla sua bocca assomiglia purtroppo al fumo che esce dalla terra, al vulcano. Come se la sua bocca sia il cratere di un vulcano. Lei potrebbe essere un vulcano. Il corpo per isola, la bocca per vulcano, l'oscurità per lo specchio d'acqua, la siga che si consuma per il fuoco. Non si può tacere la voce. Il fuoco non è mai lontano. E quando lei mi guarda con il suo sorriso, siga alla mano, fumo dentro la bocca, sembra soddisfatta di essere nuda, sulla spiaggia, nella sabbia, sotto la luna piena, circondata di tenebre, mentre io che aspetto il terremoto. Thank you. to the right, in a tight, in the light, white, right, to the right, in the light, in the light, the right, to a tight, in the light, the right, to a tight, in the light, the right, to a tight, in the light, the right, to a tight, in the light. Die Schlau. Dein Frau in Blau. Schau ganz genau, ganz genau, ganz, ganz, ganz genau wie Schlau. Die Frau in Blau. Schau ganz genau, ganz genau. Schau ganz genau. Mm-hmm. Thank you. liquido che passa in una sua sezione nell'unità di tempo e si ottiene moltiplicando la sezione perpendicolare per la velocità che avrai del liquido a regime permanente e la portata è costante attraverso una sezione